Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. A 10.000 piedi si spengono i fari d'atterraggio, si spegne il segnale delle cinture per i passeggeri e si accelera ancora a 300 nodi circa. Durante la salita, per la minore densità dell'aria, accelereremo ancora, fino a 900 km all'ora di crociera. Arriveremo a Bruxelles in 55 minuti. Ciao, sono Luca, vivo a Milano, ho 29 anni, faccio il primo ufficiale, ovvero il copilota di linea. Quando abbiamo iniziato questa per queste feste natalizie, questa nuova breve sessione dedicata ai racconti di viaggio, in questo programma che in realtà racconta storie di qualsiasi tipo, però quando abbiamo iniziato questa nuova sezione, dicevo che durerà fino ai primi di gennaio, fino all'Epifania, io mi aspettavo racconti chiaramente di qualsiasi tipo, legati a posti esotici, legati a disavventure di viaggio. Mai mi sarei aspettato il racconto di un pilota che ti racconta passo passo tutta la procedura di partenza, di decollo del proprio aereo, e sono veramente eccitato come un bambino di fronte a un babà, perché non vedo l'ora di parlargli. Avevo letto tempo fa un libro che si chiamava Chiedi al pilota, mi pare che fosse, di cui c'era anche una rubrica su un settimanale, che dava tutte queste indicazioni precisissime su che cosa accade quando sei su un aereo, perché ne parlavamo prima con Tiziano. A noi succede la stessa cosa, che sapere esattamente, cioè tecnicamente, che cosa succede, dei flap, che effetto fanno, perché senti quel rumore sotto, il carrello, eccetera eccetera, a me tranquillizza molto. Ci sono altri che invece no, non ne voglio sapere niente, fac a terra il prima possibile, è chiuso. 349-238-6666 è per scrivere in diretta, oppure voi siete qui Radio 24 il profilo Facebook, o voi siete qui R24 il profilo Twitter. Buon 24 dicembre a tutti, qualsiasi cosa stiate facendo. Oggi vi raccontiamo questa storia qua, la storia di un tizio che sta ai comandi di quei grossi pullman con le ali che prendete, o che magari state per prendere oggi, domani, dopodomani. Di solito si parte il 26 o il 27, chi riesce a farlo. Ecco, allora fate una cosa, se siete di quella categoria lì, quella mia e di Tiziano Bonini, che vuole sapere esattamente tutto, ascoltatevi e poi scaricatevi questa puntata e riascoltatevela poco prima di partire, perché ti dice esattamente cosa succede. Luca lo racconta con una grandissima serenità. Se avete voglia invece di raccontarmi qualsiasi sia il vostro tipo di viaggio, se siete non piloti aeronautici, ma se guidate una nave, se guidate un'automobile, se andate a cavallo, esattamente con linguaggio tecnico tutte le procedure che utilizzate durante il vostro viaggio. 349-238-6666. Silvia mi dice, ad esempio, con il mio laser standard, che è un barchino, è una piccola deriva, armo l'albero, infilo la randa e sistemo il boma, tutte le scotte in chiaro, barca in acqua, salgo da sopravvento, barra al centro, cazzo appena la randa e via di bolina. È esattamente così che voglio i messaggi, non voglio capirci niente di quello che dite. Mario, salgo in auto, vabbè, in auto è un po' più facile, infilo le chiavi, accendo la radio e il navigatore, setto la destinazione, mani alle 10.10 e non mi ferma più nessuno. 349-238-6666. Vi dicevo, questa puntata di Voi siete qui riguarda queste due settimane di racconto di viaggio. Se avete però voglia di mettervi lì con calma e raccontare un pezzo della vostra vita, un pezzo della vostra storia, qualunque essa sia, che abbia a che fare con il lavoro, che abbia a che fare con l'amore, con l'infanzia, basta che sia una storia, cioè che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine, mettetevi lì, scrivetela, inviatela a voisietequi@radio24.it. Ogni giorno noi ne facciamo una storia. Adesso sedetevi, allacciate le cinture, questa è la storia di Luca. Ready? Go ahead. Ready? I will expect a Kerup 1 Alpha arrival. Approaching holding point Alpha, runway 28. Ore 21:15 circa. Sole appena tramontato. Bella serata di fine luglio. 27 gradi e qualche temporale sottomonte. Posizione, aeroporto di Milano-Bergamo. Orio al serio. Si sente profumo di lasagne. Siamo all'ultima tratta della giornata. La cena dell'equipaggio è in forno dietro di me. In quel forno, per qualche motivo a me oscuro, qualsiasi cibo profuma di lasagne. In flight deck, cabina di pilotaggio, è caldo. E c'è un po' di quell'odore stantio che rimane in una stanzetta dove delle persone hanno lavorato per 8 o 9 ore. I motori sono al minimo, 21%, 400 gradi di temperatura. Davanti due puntini bianchi nel cielo blu scuro. With air, wind calm clear to land runway 28. Dice una voce autorevole con accento romano, anche in inglese, attraverso la radio. I puntini si avvicinano e faccio sapere a questa misteriosa autorità che li vedo. Così, quando ci saranno passati accanto, mi darà il permesso di entrare in pista. Ciao Orio. Ryan approaching holding point A with the traffic in sight fully ready. Faccio il pilota professionalmente da 2 anni e mezzo e volo da 5. Ho deciso di farlo da piccolo quando mio mamma mi portava all'INATA a vedere gli aeroplani che decollavano e atterravano e poi ho pensato di farne un lavoro. La cabina è pronta. La numero 1, capo degli assistenti di volo, da dietro la porta blindata ci dà il segnale acustico. Significa che tutti sono seduti. Possiamo trasformarci in aviatori senza che nessuno cada per terra perché era in piedi a gironzolare tra i sedili. Ryanair behind the Airbus A320 on short final lineup and wait behind. La misteriosa voce ministeriale ci dice che siamo autorizzati ad entrare in pista. Quella striscia di asfalto, qualche volta di cemento, più sacra di una santa sede, più inviolabile di un palazzo governativo, più preziosa di un lavoro a tempo indeterminato. Entriamo in pista col 320 fucsia battente bandiera ungherese, carico di badante e puttanieri, che decollerà rapidamente sull'asfalto bergamasco, quindi milanese, 1 chilometro davanti a noi. Inizia il processo below the line, quella serie di azioni e controlli da eseguire dopo e solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione a entrare in pista per decollare. Cabin crew, please seats for departure. Avverto la cabina per l'ultima volta che da adesso fino a circa 1000 metri di quota non dovrà più volare una mosca. Il 320 Wizz Air libera la pista e rulla verso il parcheggio. La voce romana gli dice di contattare un'altra voce su un'altra frequenza per sapere dove parcheggiare e subito dopo chiama noi. Ryanair, wind calm, clear for takeoff, runway 28. My controls, dico. E dico la frase universale e univoca che decreta il passaggio del controllo dell'aereo o della nave da un pilota all'altro. Via al cronometro e manetta a metà. Motori al 40%. Aria condizionata che spinge un po' di più. E le turbine 15 metri dietro di noi che accelerano piano piano mentre la pista inizia a muoversi lentamente. Stabilized. Motori stabili al 40%. Senza fluttuazioni strane. E via. Schiaccio il bottone magico. Toga. Set take off thrust. Le manette schizzano in avanti e i motori urlano come dei pazzi. Una delle cose più belle al mondo. Pista inizia a muoversi sempre più veloce. Senti il sedile che ti avvolge e ti spinge avanti. Il rumore delle gomme sull'asfalto è sempre più forte. 80 knots, 80 nodi, 148 km all'ora. È la chiamata che segna il passaggio dai regimi di bassa a quelli di alta velocità. Se succede qualsiasi cosa non grave sotto questa velocità, ci si ferma. Sopra si continua. Temperatura motori sui 780 gradi, 94,5% di potenza, suonano che è una bellezza. Passiamo i 120 nodi, la pista corre veloce. Do una rapida occhiata all'erba accanto. A 222 km all'ora passa veloce, molto veloce. Le ali cominciano a caricarsi, si piegano un po' verso l'alto, ma non è ancora abbastanza. V1, la velocità di decisione, via le mani dalle manette. Qualsiasi cosa succeda, ora si decolla. Non c'è più pista per fermarsi. Per chi non è del giro, no, non succederebbe nulla, nulla di grave. Si decolla, si fa un giro intorno e si riatterra, anche con un motore in fiamme. Non è pericoloso. Io intanto posso quasi sentire il carico sulle ali. L'aereo vuole staccarsi da terra, ma no, non è ancora abbastanza. Ogni volta che decollo, ogni volta che entriamo in pista, ogni volta che arriviamo per atterrare, è sempre come la prima volta. Anche se è banale dirlo, è sempre un'emozione. 140 nodi, 260 km all'ora. Le ali sono cariche, sono piegate verso l'alto, i motori ancora stabili al 94,5% a 780 gradi. La pista corre molto veloce e vedi già la fine. L'erba illuminata dal bagliore dei fari stroboscopici schizza via di lato velocissima. Un vascello di 65 tonnellate sta per trasformarsi in un gabbiano. Rotate, rotazione. Tiro il volantino verso di me e la pista si allontana. Il muso è già in aria. Il carrello, 15 metri dietro, ancora no. Ora siamo in aria. 160 nodi, 296 km all'ora. Muso a 18 gradi in su. Gear up. Sul carrello e saliamo come missili. 3.000 piedi al minuto. 1 km al minuto in verticale. 1.500 piedi, 2.300 a Bergamo. E cominciamo a pulire l'aereo. Via i flaps. Acceleriamo a 250 nodi. Leggera virata a sinistra e saliamo verso Saronno. 3.000 piedi. Checklist dopo il decollo. Gli assistenti di volo possono iniziare il servizio. Il muso dell'aereo è ancora molto verso l'alto. 10, 11 gradi e siamo ancora dei razzi. A 10.000 piedi, circa 3.000 metri da terra, si spengono i fari d'atterraggio. Si spegne il segnale delle cinture per i passeggeri e si accelera ancora, 300 nodi circa, 590 km all'ora. Durante la salita, per la minore densità dell'aria, accelereremo ancora fino a 900 km all'ora di crociera. Arriveremo a Bruxelles in 55 minuti. A 38.000 piedi, circa 11.400 metri da terra, il sole non è ancora tramontato. Siamo così in alto da vedere molto oltre la curvatura terrestre, rispetto allo stesso punto della Terra. I tramonti qua sono una cosa mozzafiato e la Luna, dai suoi 380.000 chilometri, la senti un po' più vicina, solo una goccia in un mare. Luca è su un mezzo di trasporto che non è un aereo, è su un barchino che a giudicare dalla tettoia che lo copre è un barchino di quelli che trasportano i turisti o forse i subacquei, non lo so. Si vede una roccia bianca dietro di lui, è credo nel Mediterraneo, ha su magliette e pantaloncini, è estate, fa caldo, ha degli occhiali da sole ovviamente a goccia a specchio, essendo un pilota, e ha dei capelli a spazzola meravigliosi. Pronto Luca? Ciao Matteo. Dove sei in questa foto? In questa foto sono esattamente nel Mediterraneo, c'hai ragione, sono in Grecia. Ah, ok. Nell'isola di Astipalea. Senti, c'hai dei capelli a spazzola che farebbero invidia ai Sharawi? Beh, diciamo che lì c'era il vento, che... Ah, ok, che aiutava. Del suo maniera... Di quando è? Di quest'estate? È l'estate scorsa, sì. Senti, eri lì con la fidanzata? Te lo domando perché mi domando sempre se i piloti hanno una fidanzata. Esatto, ero lì con la fidanzata. Quindi ce l'hai una fidanzata? Che è nel frattempo è diventata moglie. Ah, ma che bello. Ma scusami, ma c'hai 29 anni, Luca? Non stai andando un po' troppo forte? Beh, no, dai. Insomma, diciamo che quando stavo io ho vitato all'estero per 2 anni in Belgio. Uh-huh. E lì ero addirittura vecchio per non essere sposato. Ah beh, cioè sì, i paesi del nord non fanno testo, insomma, sono un'altra categoria. Quindi scusami Luca, tu ti sei sposato non con un assistente di volo? No, assolutamente no. Con una ragazza che avevi conosciuto prima? Esattamente. Io però voglio sapere tutto da te, perché tu ci hai raccontato quello che succede in cabina e ti ringrazio perché il racconto è splendido e per i feticisti tipo me, Tiziano Bonini, è un piacere sapere di tutti i termini tecnici eccetera eccetera, ma raccontaci quello che non ci puoi raccontare, che so che sembra un ossimoro Luca, però cioè che so io, che uno si porta una birretta in cabina e se la beve mentre è in viaggio? No, è impossibile. No, è impossibile. Quello non succede. Mi hanno detto che in alcune compagnie del Nord Europa qualche anno fa poteva anche succedere. Adesso No, diciamo che comunque ci sono i controlli, nessuno. Ma poi anche come dentologia professionale, diciamo che quando nei giorni in cui lavoro non bevo assolutamente, nemmeno quando sono fuori servizio. Ma vi fanno tipo l'antidoping? Dunque, una volta all'anno abbiamo delle analisi in cui ci fanno analisi del sangue e vedono se se facciamo di sostanze e possono farci dei controlli random. Ah, ok, cioè presi a caso. Una cosa, diciamo, in un certo senso così. Dove ti trovi adesso, Luca? Questo momento sono a Milano. Sei a Milano? Nei miei giorni di riposo, dopodiché tornerò a Roma per lavorare nei giorni subito dopo il Natale fino a Capodanno. Adesso per che compagnia lavori? Per Ryanair. Per Ryanair, quindi si sei... può dire, non ci sono problemi. Ma sì, certo che si può dire. Sei lì da quanto? Sono da 2 anni. E come ci sono, si trova stato... in quella compagnia? Perché quando hanno fatto delle selezioni mi sono presentato e sono stato fortunato a passarle. Ma è vero quello che dicono che i dipendenti Ryanair devono fare un sacco di turni stancantissimi, che le altre compagnie hanno turni un po' più blandi? Guarda, adesso come adesso tutti più o meno fanno abbastanza, sono turni abbastanza stancanti. Ora, noi magari facciamo 4 voli al giorno, però tutte le sere rientriamo a casa dove siamo basati e abbiamo comunque un turno in cui lavoriamo... 5 giorni e diciamo che altri 4-5 giorni stiamo a casa. Di conseguenza in realtà il nostro turno è più invidiabile di quello di altre compagnie. Quando posso vedere. Era capitato forse un'altra volta di avere un pilota d'aereo che però pilotava degli aerei cargo e sempre succede e sta succedendo ancora adesso via messaggio. E allora te lo chiedo, quello che mi chiedono, come si diventa pilota? Qual è stato il tuo iter di studi? Io in realtà ho studiato tutt'altro, ho studiato architettura prima, dopodiché volevo fare il pilota a livello privato, mi piaceva e ho lavorato la notte e la sera all'IKEA per pagarmi questi studi, dopodiché a livello privato diciamo ho fatto un mutuo, ho fatto una scuola di volo e poi sono stato fortunato a essere chiamato da un privato a volare per un po' di tempo che mi ha fatto fare un pochino di ore a Roma. E dopodiché poi sono stato chiamato da Ryanair e sono stato in Belgio 2 anni con loro. Ma quindi ti chiamano loro o però tu fai un'application, cioè ci sarà un... No, fai un'application ovviamente, sì, fai un'application e loro poi fanno il loro screening di curriculum che non... So, poi non sono... Chiaro, no, beh, a quel punto... Ma scusami, quando dici che hai lavorato all'IKEA hai fatto un mutuo perché costano tanto questi corsi di beh, volo? Sì, ovviamente sì, purtroppo. Ma per tanto intendiamo 10.000 o 50.000? Pertanto diciamo che professionale sui 50.000 purtroppo, sì, in Italia. Poi conosco gente che è andata all'estero e ha speso anche 100.000, però non è il mio caso. Senti, diciamo che sto ancora lavorando per pagare il mutuo, ecco, effettivamente. Quando ti scade sto mutuo? No, sarebbe l'anno prossimo, dai. Ah, ok. Senti, invece dimmi come sei il tuo primo volo, te lo ricordi? Cioè la prima volta che avevi il comando... Come se fosse ieri. Che aereo era? No, tu aspetta, tu intendi il primo volo commerciale o il primo volo in generale proprio? No, il primo volo in generale, sì. In generale era un Cessna 172 del 1969, mi sembra del 70. Che sembra che guidavi un maggiolino praticamente. Praticamente sì, è mitico, è un aereo che tuttora è a Varese, diciamo una scuola vicino a Varese. Ah, ok. E invece il primo volo con un equipaggio, scusami, con un equipaggio, con dei passeggeri? Fu un Bruxelles Treviso, un Charleroi Treviso. E che aereo era? 737. Qual è l'aereo che preferisci? Il 320, l'Airbus, il Boeing, il McDonnell Douglas? Diciamo il McDonnell Douglas, se lo facessero ancora sarebbe fantastico. L'MD-80 è l'aereo che mi convince, che per farti capire sono quelli con motori in coda che ce l'aveva l'Italia. Sì, Meridiana soprattutto agli MD-80, hanno solo quelli che vanno a Olbia, Cagliari. Bravo, quelli. Cioè, solo no, però. Il motivo per il quale mi sono innamorato del volo, diciamo, con l'aereo. Perché? Perché, non lo so, mi piaceva. Mio papà quando ero piccolo mi portava all'Inate a vedere gli aeroplani che decollavano, quello faceva particolarmente rumore. Ok, invece la domanda che casca sempre quando uno lavora con gli aerei, la faccio anche agli assistenti di volo che incontro annoiando chiunque, ti è capitato di avere un po' di paura? No, un po' di paura no, ma diciamo che quando quando entri in zone temporalesche non sai bene... Non sai bene cosa c'è dietro, lo sai perché c'è il radar meteo, vedi bene quello che c'è, però devi anche fare un po' di ragionamento, nel senso che in base al vento devi capire dove passare. E poi non ho tanta esperienza, comunque sono un primo ufficiale, cioè ho 1500 ore. Certo. E qualche volta un po' di agitazione ti viene, nel senso che comunque non sai bene quello che ti aspetti. E i comandanti, sono persone che ti danno sicurezza, sono persone simpatiche? Sì, senza dubbio, la maggior parte di loro è gente con tanta esperienza, in varie compagnie, gente molto aperta che ha viaggiato. Tu l'hai visto il film The Flight con Denzel Washington? Molto bello. Ecco, se non l'avete visto, guardate il modo in cui lui fa atterrare quell'aereo. Chiaramente immagino che sia contro ogni regola possibile del volo. Fino a un certo punto. Ah, così mi fai godere, pensare che è possibile atterrare in quel modo lì. Non è possibile, allora, diciamo, quello ovviamente è romanzato, però il concetto... Allora, è ispirato a una cosa che è successa a un aeroplano della Alaska Airlines. sempre nel medio 80, okay, in cui praticamente si ruppe un meccanismo in coda nel quale fece picchiare l'aereo. E diciamo che teoricamente se l'aereo picchia tu lo metti in volo rovescio e sta su. Però okay, in realtà in pratica un po'. E ci fermiamo qui perché immagino che la gente questa sera o domani, il giorno di Natale, si andrà a vedere The Flight. No, non è più successo niente. Anche solo per quella scena lì. Senti Luca, ti ringrazio moltissimo, ti auguro un buon Natale, ovviamente essendo la vigilia di Natale, e un buon volo. Spero di... Il prossimo Ryanair che prenderò chiederò di te. Va bene, ci sei a Ciampino però. Ciao Luca, grazie. Ciao. Ciao, in Natale, bocca al lupo. Ciao ciao. 349-238-6666, Jorge mi scrive a proposito di viaggi e di dettagli del proprio viaggio. Striglio il mio cavallo, lo sello e stringo le cinghie, controllo le briglie e il morso, monto in groppa, gli do una pacca sul collo per fargli capire che ho il controllo, do un colpo leggero con il tacco, inizio al passo, poi al trotto e al galoppo. Io vi auguro un buon Natale domani, ma tanto saremo qui domani alle 16. Qualsiasi cosa stiate facendo, non ascoltate le altre radio, tanto diranno sempre le solite cose: ma dai, incredibile, cosa hai preso, una borsetta? No, io invece ho riciclato un orologio. Continuate su Radio 24, fate buona cena della vigilia e un buon pranzo domani. Ci sentiamo domani, grazie a quelli che hanno reso possibile la puntata, che sono Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni. Grazie soprattutto a Luca, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Elis Bonini e sono di Reggio Emilia. La storia di domani è la mia e parla di una lunga passeggiata sulle Alpi. Questa è la mia storia e io sono qui.